Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Saluto il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo, benvenuto. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Parliamo della notizia che ovviamente è di questi giorni, è di ieri. Parliamo del DDL, decreto che è diventato legge sulla concorrenza. Sì, parliamo proprio di questo DDL perché siamo arrivati alla fine di un percorso che insomma è stato un po' un succedersi di 2 anni e rotti di polemiche. Che alla fine il governo ha deciso di entrare nel merito di alcune questioni cercando un po' di incentivare una liberalizzazione che per alcuni settori del nostro paese ancora manca, quello che possa portare dei benefici ai consumatori. Benissimo, vediamo allora un po' nello specifico quali sono queste nuove regole. Sì, praticamente si parla innanzitutto dell'RC auto, un settore sempre molto discusso con grandi differenze tra nord e sud, dove sostanzialmente il sud si paga molto di più per motivi anche molto noti, ma che in sostanza si vuole un po' anche equiparare con le nostre tariffe qui al nord, istituendo magari una scatola nera dentro l'auto per verificare un attimino quando accadono gli incidenti un po' le responsabilità e quello che è accaduto. Poi non c'è nessuna modifica a società di ingegneri e avvocati, dove quegli ingegneri restano fuori dal controllo dell'ordine e le seconde devono continuare ad avere tra i soci almeno 2/3 del capitale sociale di avvocati iscritto all'albo. Questo perché probabilmente comunque in Italia sappiamo che rispetto ad altri paesi solo gli avvocati possono esercitare l'attività, mentre persone che vogliono istituire società di consulenza legale non possono farlo anche avendo dei dipendenti legali rispetto a chi svolge la libera professione. C'è un po' una sorta di monopolio ancora. Mentre c'è un tetto del 20% alle farmacie, dove le farmacie di capitale potranno continuare a controllare le farmacie, ma dovranno avere un tetto del 20% su base regionale. Quindi alla fine i farmaci di fascia C continuano a essere venduti solo in farmacia e qui siamo un pochino fermi su quello che era un'aspettativa che un po' c'eravamo fatti anche noi promotori di una vera liberalizzazione dei farmaci rispetto a un settore che ancora è molto controllato. Per quanto riguarda il mercato dell'energia e del monopolio delle poste, ricordiamoci che la fine del mercato tutelato delle bollette e del gas è fissata dal 1 luglio 2019, e per cui da quell'ora saremo liberi di poter scegliere le condizioni, i contratti diciamo più adatti e i prezzi non saranno più regolamentati. Termina lo stop anche dei monopoli delle poste previsto per settembre 2017. Invece è scomparsa la norma antiscorreria, che è quella che noi contestiamo, il fatto di non istituire un fondo garantito per le società che sono quotate in borsa, e da ultimo che gli albergatori possono promuovere insomma delle offerte anche a condizioni migliori di quelle proposte dai siti o dalle offerte che si trovano su internet. Questa mi sembrerebbe una cosa quasi ovvia, nel senso, se io sono un albergatore potrò fare anche i prezzi un po' che voglio, o forse questa cosa non è proprio così scontata? Sì, diciamo che oggi ci sono degli accordi che le società prendono con questi gestori di siti, dove offrono in cambio di pubblicità dei prezzi scontati, però in cambio non possono promuovere delle tariffe inferiori a queste offerte. Domani anche per me sembra che questa cosa finalmente possa diciamo rivolgersi a una platea più ampia e non esclusiva di quei pochi che magari hanno una certa capacità di muoversi con cellulare o con internet, ma insomma c'è la possibilità e speriamo di poter anche un po' contrattare qualcosina rispetto a quelle che sono anche dei tariffari proposti. Certo, non ho capito, scusami, cosa si intende per scorrerie, perché questa norma antiscorrerie, che cosa sarebbe? Praticamente oggi le società quotate in borsa non hanno delle tutele previste nel caso di crack o di fallimenti, per cui l'idea era quella di istituire una specie di fondo a garanzia del Ministro dello Sviluppo Economico, che nel caso che queste società dovessero andare male, comunque i soci o chi o gli azionisti che hanno investito dei risparmi possano avere una qualsiasi salvaguardia o un percentuale o di valore, per cui rimane sempre il rischio per chi si adopera a queste forme di investimento a trovarsi sempre senza nulla in mano. Col famoso pugno di Mosche, no? Effettivamente. Capita spesso. Come capita spesso, è vero, è vero. Una cosa che volevo chiederti sulla questione dell'energia, perché effettivamente io libero cittadino, dato che ho già un contratto di mercato libero per l'energia, in questi giorni sto proprio guardando un po' di varie offerte e devo dire che si fa un po' fatica a capire qual è l'offerta giusta, quella che potrebbe andare bene per l'esigenza insomma familiare, e i prezzi sono molto molto diversi a seconda del tipo di azienda che vado a scegliere per eventualmente capire se utilizzarla oppure no. Sì, qui purtroppo siamo ancora in una giungla di prezzi, offerte e tariffe che secondo noi sono ancora poco chiare. Perché se da un lato sono state obbligate per effetto di un recepimento di una norma anche dell'autorità a rendere le bollette più trasparenti, e questo abbiamo visto che ha creato solo confusione, perché le persone hanno capito cosa pagano rispetto a prima, e verificando l'incidenza dei consumi e dell'importo della bolletta su quello che sono le tasse, quindi non ti dico cosa è accaduto con persone che alla fine dicono ma il 50% sono consumi, adesso il 50% sono spese che non si capisce più, comprensivo di tasse, oneri, dispacci, distribuzione, eccetera. Dall'altra è vero che dovremo pensare di capire domani quella che sarà l'offerta migliore rispetto a quelle che sono le nostre esigenze, perché se fino ad oggi, e lo sarà ancora per un pochino, si poteva decidere di stare sotto tutela del mercato, sì, per cui avere un prezzo regolamentato dall'autority, domani questa scelta sparirà e dovremmo cercare di districarsi su un mercato come quello un po' della telefonia mobile, dove dovremmo cercare di individuare l'offerta più conveniente per le nostre esigenze rispetto a quelli che sono dei prezzi proposti, che rischiano di essere solo delle offerte civetta, cioè attirare le persone su contratti e promozioni e dopo magari andare a modificarle nel corso del contratto. E in questo magari un domani l'associazione difesa consumatori potrebbe tornare utile. Grazie per tutte queste segnalazioni, che poi evidentemente troviamo anche nel vostro sito www.associazionedifesaconsumatori.it. Con Carlo Garofolini o con Gianluca Codognato ci ritroviamo martedì prossimo. Grazie a te Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.